Bagnavano le formiche con benzina e appiccavano il fuoco, ma ricomparivano con nuova lena. Pitturavano di calce viva i tronchi degli alberi, ma le formiche salivano senza arrestarsi e non rispettavano né pere, né mele e neppure le arance. Si infilavano nell'orto, rovinavano i meloni, entravano nella latteria e il latte veniva ritrovato acido e pieno di minuscoli cadaveri. Si introducevano nei pollai e divoravano i polli vivi, lasciando un residuo di piume e qualche pietoso ossicino. Tracciavano strade dentro la casa, entravano attraverso le tubature, si impossessavano della dispensa. Tutto quello che veniva cucinato bisognava mangiarlo subito, perché se rimaneva per qualche minuto in tavola, arrivavano in processione e lo divoravano. Pedro II Garcia le combatté con l'acqua e col fuoco e sotterrò spugne inzuppate di miele d'api per farle ammassare, attratte dal dolce e ammazzarle a mano salva. Ma tutto era stato inutile. Esteban Trueba andò al villaggio e tornò carico di pesticidi di tutte le marche conosciute, in polvere, liquidi, in pillole, e ne gettò così tanto dappertutto che non si poteva mangiare la verdura perché faceva venire crampi alla pancia. Ma le formiche continuarono ad arrivare e a moltiplicarsi, ogni giorno più insolenti e decise. Esteban si recò un'altra volta al villaggio e inviò un telegramma in città. 3 giorni dopo sbarcò alla stazione Mr. Brown, un gringo nano, provvisto di una valigia misteriosa che Esteban presentò come tecnico di agricoltura ed esperto in insetticidi. Dopo essersi rinfrescato con una caraffa di vino alla frutta, aprì la sua valigia sul tavolo, tirò fuori un arsenale di strumenti mai visti e proseguì prendendo una formica e osservandola minuziosamente con un microscopio. «Perché le guarda tanto, mister, se sono tutti uguali?» disse Pedro II Garcia. Il gringo non gli rispose. Quando ebbe terminato di identificare la razza, il modo di vivere, l'ubicazione dei loro nidi, le loro abitudini e persino le loro più segrete intenzioni, era trascorsa una settimana e le formiche si stavano infilando nei letti dei bambini. Si erano mangiate le riserve alimentari per l'inverno e cominciavano ad attaccare i cavalli e le mucche. Allora Mr. Brown spiegò che bisognava affumicarle con un prodotto di sua invenzione che faceva diventare sterili i maschi, sicché finivano di moltiplicarsi, e poi bisognava irrorarle con un altro veleno, anche questo di sua invenzione, che causava una malattia mortale nelle femmine, e così, assicurò, il problema sarebbe stato risolto. «In quanto tempo?» domandò Esteban Trueba, che dall'impazienza stava passando alla furia. «Un mese», disse Mr. Brown. «Tra un mese si saranno mangiate anche gli uomini, Mr. Brown», disse Pedro II Garcia. «Se me lo permettete, patron, vado a chiamare mio padre. Sono 3 settimane che sta dicendomi di conoscere un rimedio per la piaga. Io credo che siano cose da vecchio, ma non ci rimettiamo niente a fare la prova». Così chiamarono il vecchio Pedro Garcia, che arrivò strascicando i piedi, così nero, rimpicciolito e sdentato, che Esteban ebbe un sussulto a quello spettacolo del trascorrere del tempo. Il vecchio ascoltò col cappello in mano, guardando in terra e masticando l'aria con le gengive nude. Poi chiese un fazzoletto bianco che Ferula tirò fuori dall'armadio di Esteban e uscì di casa, attraversò il cortile e andò dritto all'orto, seguito da tutti gli abitanti della casa e dal nano straniero che sorrideva con disprezzo. Ah, questi barbari, oh God! L'anziano si accovacciò con difficoltà e cominciò a riunire formiche. Quando ne ebbe una manciata, le mise dentro il fazzoletto. Annodò le 4 cocche e mise l'involtino nel suo cappello. «Vado a farvi vedere la strada perché ve ne andiate, formiche, e perché vi portiate via le altre», disse. Il vecchio salì su un cavallo e si allontanò al passo, mormorando consigli e raccomandazioni alle formiche, preghiere di saggezza, formule di incantesimo. Lo videro sparire verso i confini della proprietà. Il gringo si sedette per terra, ridendo come un matto, finché Pedro II Garcia non lo scosse. «Vada a ridere di sua nonna, mister. Guardi che il vecchio è mio padre», lo avvertì. A sera Pedro Garcia ritornò. Scese lentamente, disse al padrone che aveva messo le formiche sulla strada giusta e se ne andò a casa. Era stanco. Il mattino dopo videro che non c'erano formiche in cucina, nemmeno nella dispensa. Cercarono nel granaio, nella stalla, nei pollai, andarono nei campi, arrivarono sino al fiume. Guardarono dappertutto e non ne trovarono neanche una per campione. Il tecnico divenne frenetico. «Dovete dirmi come fare questo!» gridava. «Parlandogli, appunto, mister, gli dica che se ne vadano, che qui stanno dando fastidio e loro capiscono», spiegò Pedro Garcia il vecchio. Clara fu l'unica a trovare naturale il procedimento. Ferula si attaccò a questo per dire che vivevano in un buco, in una regione disumana, dove non funzionavano le leggi di Dio e nemmeno il progresso della scienza, che un giorno avrebbero cominciato a volare con la scopa, ma Esteban Trueba la fece star zitta. Non voleva che cacciassero nuove idee in testa a sua moglie. Negli ultimi tempi Clara aveva ripreso le sue attività stravaganti, parlava con i fantasmi e trascorreva ore a scrivere sui quaderni in cui annotava la sua vita. Quando perse interesse per la scuola, per il laboratorio di cucito e per le riunioni femministe e riprese a dire che tutto era molto carino, capirono che era di nuovo incinta. Per colpa tua! Gridò Ferula a suo fratello. Lo spero proprio, rispose lui. Fu subito chiaro che Clara non era in grado di passare la gravidanza in campagna e di partorire al villaggio, sicché organizzarono il ritorno in città. La cosa consolò un po' Ferula, che sentiva la gravidanza di Clara come un affronto personale. Si mise in viaggio per prima con la maggior parte dei bagagli e dei servi per aprire la grande casa dell'angolo e predisporre l'arrivo di Clara. Esteban accompagnò qualche giorno dopo sua moglie e la figlia di ritorno in città e nuovamente lasciò le tre Marie in mano a Pedro II Garcia, che era diventato l'amministratore, sebbene non ne traesse maggiori privilegi, solo maggior lavoro. Il viaggio dalle tre Marie alla capitale consumò le rimanenti forze di Clara. Io la vedevo sempre più pallida, asmatica, con le occhiaie, con le scosse dei cavalli e poi con quelle del treno, la polvere della strada. E la sua tendenza naturale ai capogiri stava perdendo energie a vista d'occhio e io non potevo fare molto per aiutarla, perché quando stava male preferiva che non le parlassero. Mentre scendeva alla stazione, dovetti sorreggerla perché le gambe non la sostenevano. Mi sembra di essere sul punto di sollevarmi, disse. Non qui, le gridai spaventato all'idea che si mettesse a volare sopra le teste dei passeggeri sul marciapiede. Ma lei non si riferiva concretamente alla levitazione, bensì al salire a un livello che le consentisse di staccarsi dal disagio, dal peso della sua gravidanza e dalla profonda fatica che le si cacciava nelle ossa. Entrò in un altro dei suoi lunghi periodi di silenzio, credo sia durato qualche mese, durante i quali si serviva della lavagnetta come ai tempi del mutismo. In quell'occasione non mi allarmai perché pensavo che avrebbe recuperato la normalità come era successo dopo la nascita di Blanca e d'altra parte avevo finito per capire che il silenzio era l'ultimo e inviolabile rifugio di mia moglie e non una malattia mentale come sosteneva il dottor Cuevas. Ferula la curava nello stesso modo ossessivo in cui prima curava nostra madre, la trattava come fosse stata un'invalida, non voleva lasciarla mai da sola e aveva trascurato Blanca che piangeva tutto il giorno perché voleva tornare alle Tre Marie. Clara girava per casa come un'ombra grossa e silenziosa, con un disinteresse da buddista nei confronti di tutto quello che la circondava. Non mi guardava neppure. Mi passava accanto come se fossi stato un mobile e quando le rivolgevo la parola sembrava sulla luna, come se non mi udisse o non mi conoscesse. Non avevamo più ripreso a dormire insieme. I giorni di ozio nella città e l'atmosfera irrazionale che si respirava nella casa mi facevano venire i nervi a fior di pelle. Facevo in modo da tenermi occupato, ma non bastava, ero sempre di cattivo umore. Uscivo tutti i giorni per sorvegliare i miei affari. In quell'epoca cominciai a speculare alla borsa di commercio e passavo ore a studiare gli alti e i bassi dei valori internazionali. Mi dedicai a fare investimenti, a fondare società, alle ditte di importazione. Passavo molte ore al club e cominciai a interessarmi anche di politica. E mi abbonai anche a una palestra di ginnastica, dove un gigantesco allenatore mi obbligava a esercitare muscoli che non sospettavo nemmeno di avere in corpo. Mi aveva raccomandato di fare massaggi, ma non mi erano piaciuti. Detesto che mi tocchino mani mercenarie. Niente di tutto questo poteva però riempirmi la giornata. Ero imbarazzato e annoiato, volevo tornare in campagna, ma non osavo lasciare la casa. Inoltre, Clara stava ingrossando troppo, aveva una pancia sproporzionata che reggeva a stento con la sua fragile ossatura. Si vergognava che la vedessi nuda. Ma era mia moglie e non potevo permettere che avesse pudore con me. L'aiutavo a fare il bagno o a vestirsi quando Ferula non mi precedeva e sentivo una pena infinita per lei, così piccola e sottile con quella mostruosa pancia, mentre si avvicinava pericolosamente il momento del parto. Molte volte mi ero svegliato pensando che avrebbe potuto morire nel travaglio e mi appartavo col dottor Cuevas per discutere il modo migliore di aiutarla. Eravamo rimasti d'accordo che se le cose non si presentavano bene era meglio farle un altro taglio cesareo, ma io non volevo che la portassero in una clinica e lui si rifiutava di farle un'operazione come la prima, nella sala da pranzo della casa. Diceva che non c'erano comodità, ma a quei tempi le cliniche erano un focolaio di infezioni, dove erano più quelli che morivano di quelli che guarivano. Un giorno, quando mancava poco alla data del parto, Clara discese senza preavviso dal suo rifugio braminico. E riprese a parlare. Chiese una tazza di cioccolata e mi chiese di portarla a passeggio. Il mio cuore ebbe un sobbalzo. Tutta la casa si riempì di allegria, stappammo champagne, feci mettere fiori freschi in tutti i vasi, le ordinai i camelli e i suoi fiori preferiti e ne tappezzai la sua camera, finché non cominciò a venirle l'asma e dovemmo toglierle subito. Corsi a comprarle una spilla di diamanti nella via dei gioiellieri ebrei. Clara la ricevette con effusioni, la trovò molto carina, ma non gliel'ho mai vista addosso. Immagino che sia andata a finire in qualche luogo impensabile, dove l'aveva messa e poi dimenticata, come quasi tutti i gioielli che le ho comprato durante la nostra lunga vita in comune. Chiamai il dottor Cuevas, che si presentò col pretesto di prendere il tè, ma in verità veniva a esaminare Clara. La portò nella sua camera e poi disse a Ferula e a me che, sebbene sembrasse guarita dalla sua crisi mentale, doveva prepararsi a un parto difficile perché il bambino era molto grosso. In quel momento Clara entrò in salotto e dovette udire l'ultima frase: "Andrà tutto bene, non preoccupatevi", disse. "Spero che questa volta sia un maschio, così porterà il mio nome", scherzai. "Non è uno, sono due", replicò Clara. "I gemelli si chiameranno Jaime e Nicolás, rispettivamente", aggiunse. Questo era troppo per me. Credo di essere esploso per la pressione accumulata negli ultimi mesi. Divenni furioso, dissi che quelli erano nomi da commercianti stranieri, che nessuno si chiamava così nella mia famiglia né nella sua, che almeno uno doveva chiamarsi Esteban come me e come mio padre. Ma Clara spiegò che i nomi ripetuti creano confusione nei diari e rimase inflessibile nella sua decisione. Per spaventarla, ruppi con una manata un vaso di porcellana che mi pare era l'ultimo vestigio dei tempi splendidi del mio bisnonno, ma lei non si commosse. E il dottor Cuevas sorrise dietro la sua tazza di tè, il che mi fece andare in bestia. Uscii sbattendo la porta e me ne andai al club. Quella notte mi ubriacai. In parte perché ne avevo bisogno, in parte per vendetta, andai al bordello più conosciuto della città, che aveva un nome storico. Desidero chiarire che non sono un uomo da prostitute e che solo nei periodi in cui ho dovuto vivere solo per un lungo periodo mi sono ricorso. Non so cosa mi successe quel giorno. Ero irritato con Clara, ero arrabbiato, avevo un eccesso di energie e mi lasciai tentare. In quegli anni gli affari del Cristoforo Colombo erano fiorenti, ma non aveva ancora acquisito il prestigio internazionale che avrebbe raggiunto quando fosse apparso sulle carte di navigazione delle compagnie inglesi e nelle guide turistiche e sarebbe stato ripreso dalla televisione. Entrai in un salone con mobili francesi, di quelli con le gambe tortili, dove mi ricevette una maîtresse nazionale che imitava alla perfezione l'accento di Parigi e che cominciò a farmi vedere la lista dei prezzi e immediatamente a chiedermi se avevo in mente qualcosa di speciale. Le dissi che la mia esperienza si limitava al lampioncino rosso e a qualche squallido lupanare di minatori nel nord, sicché qualsiasi donna giovane e pulita mi sarebbe andata bene. Lei mi è simpatico, monsieur. Le porterò il meglio della casa. Alla sua chiamata accorse una donna avvolta in un vestito di raso nero troppo stretto, che a fatica conteneva l'esuberanza della sua femminilità. Aveva i capelli tirati in parte sopra un orecchio, una pettinatura che non mi è mai piaciuta, e al suo passaggio spandeva un terribile profumo di muschio che rimaneva sospeso nell'aria, persistente come un gemito. Felice di vederla, patron, salutò. E allora la riconobbi, perché la voce era l'unica cosa che non era cambiata a transito sotto. Mi condusse per mano in una stanza chiusa come una tomba, con la finestra coperta da tendaggi scuri dove non era penetrato un raggio di luce naturale da tempi remoti, ma che comunque sembrava un palazzo in confronto alle sordide installazioni del lampioncino rosso. Lì sfilai personalmente il vestito di raso nero a transito, sciolsi la sua orribile pettinatura e potei constatare che in quegli anni era cresciuta, ingrassata e imbellita. "Vedo che hai fatto progressi", le dissi. "Grazie ai suoi 50 pesos, patron, mi sono serviti per cominciare", mi rispose. "Adesso posso restituirglieli rivalutati perché con l'inflazione non valgono come prima". "Oh, Preferisco che tu mi debba un favore, Transito, risi. Terminai di togliere le sottovesti e constatai che non rimaneva quasi nulla della ragazza sottile con i gomiti e le ginocchia sporgenti che lavorava al lampioncino rosso, eccetto la sua instancabile disposizione alla sensualità e la sua voce da uccello rauco. Aveva il corpo depilato e la sua pelle era stata sfregata con limone e miele di Amamelis, come mi spiegò, sino a ridurla tenera e bianca come quella di un bambino. Aveva le unghie dipinte di rosso e un serpente tatuato intorno all'ombelico che poteva muovere in tondo mentre conservava il resto del corpo perfettamente immobile. Mentre mi dimostrava la sua abilità nel far ondulare il serpente, mi raccontò la sua vita. Se fossi rimasta al lampioncino rosso, che ne sarebbe stato di me, patron? Non avrei più denti, sarei una vecchia. In questa professione una donna si sciupa molto, bisogna curarsi. E meno male che non lavoro in strada. Non mi è mai piaciuto, è molto pericoloso. In strada bisogna avere un magnaccio, altrimenti si corrono molti rischi. Nessuno rispetta una donna sola. Ma perché dare a un uomo quello che costa tanto guadagnare? In questo senso le donne sono molto sciocche, sono figlie del rigore. Hanno bisogno di un uomo per sentirsi sicure e non si rendono conto che chi bisogna temere è proprio l'uomo. Non si sanno amministrare, hanno bisogno di sacrificarsi per qualcuno. Le puttane sono la peggior feccia, padron. Mi creda, passano la vita a lavorare per un magnaccia, sono contente quando le picchia, si sentono orgogliose se lo vedono ben vestito, coi denti d'oro, con anelli, e quando le lascia e se ne va con un'altra più giovane glielo perdonano perché è un uomo. No, patroni, io non sono così. Nessuno mi ha mantenuta, perciò neanche fossi matta mi metterei a mantenere un altro. Lavoro per me, quello che guadagno me lo spendo come voglio. Mi è costato molto, non creda che sia stato facile, perché alle padrone dei postriboli non piace trattare con le donne, preferiscono intendersela con i magnaccia. Non ne aiutano nessuna, non hanno considerazione. Ma sembra che qui ti apprezzino, Transito. Mi hanno detto che eri la migliore della casa. Lo sono, ma questa impresa andrebbe a rotoli se non fosse per me, che lavoro come un asino, disse lei. Le altre sono già degli stracci. Qui vengono solo vecchi, non è più come prima. Bisogna modernizzare tutto per attirare gli impiegati pubblici che non hanno niente da fare a mezzogiorno, i giovani, gli studenti. Bisogna ampliare le installazioni, dare più allegria al locale e pulire, pulire a fondo. Così la clientela avrebbe fiducia e non avrebbe paura di prendersi una malattia venerea, no? Questo è un porcile, non puliscono mai. Guardi, alzi il cuscino e sicuramente salterà fuori una cimice. Glielo dico io alla madama, ma lei non mi dà retta. Non ha occhio per gli affari. E tu ce l'hai? Come no, patron? A me vengono in mente un milione di cose per migliorare il Cristoforo Colombo. Io ci metto entusiasmo in questa professione. Non sono di quelle che stanno sempre lì a lamentarsi, dando la colpa alla sfortuna quando va male. Non vede dove sono arrivata? Sono già la migliore. Se mi metto d'impegno posso avere la miglior casa del paese, glielo giuro. Stava facendomi divertire molto. Sapevo apprezzarla perché, a furia di vedere l'ambizione nello specchio quando mi facevo la barba alla mattina, avevo finito per imparare a riconoscerla quando la vedevo negli altri. Mi sembra un'idea eccellente, Transito. Perché non ti metti in proprio? Io ci metto il capitale, le offrii, affascinato dall'idea di ampliare i miei interessi commerciali in quella direzione. A che punto ero ubriaco. No, no, no, no, no, grazie, patron, rispose Transito accarezzando il suo serpente con un'unghia dipinta con lacca cinese. Non mi conviene liberarmi da un capitalista per cascare sotto un altro. Quello che bisogna fare è una cooperativa e mandare al diavolo la madama. Non ne ha mai sentito parlare? Faccia attenzione. Guardi che se i suoi dipendenti formano una cooperativa in campagna, lei è fregato. Quello che voglio è una cooperativa di puttane. Possono essere puttane, finocchi per dare più ampiezza all'affare. Noi ci mettiamo tutto, il capitale e il lavoro. Perché dovremmo avere un padrone? Facemmo all'amore nel modo violento e feroce che avevo quasi dimenticato a forza di navigare nel veliero delle acque quiete della seta azzurra. In quel disordine di cuscini e di lenzuola, stretti nella viva nudità del desiderio, avvinghiandoci sino a smarrirci, mi risentii di 20 anni, contento di avere tra le braccia quella femmina selvaggia e bruna che non si scioglieva tra le mani quando la montavo. Una puledra forte da cavalcare senza tante storie, senza che le mani sembrassero diventare troppo pesanti e la voce troppo dura e i piedi troppo grandi e la barba troppo ispida e che mi scaricava una sfilza di parolacce all'orecchio e non mi faceva sentire il bisogno di essere cullato con tenerezze né ingannato da adulazioni. Poi, assopito e felice, Riposai un momento accanto a lei, ammirando la curva solida del suo fianco e il tremito del suo serpente. Ci rivedremo, transito, dissi, dandole la mancia. È proprio quello che le ho detto una volta, padrone, si ricorda? Mi rispose con un ultimo movimento del serpente. In realtà non avevo intenzione di tornare a trovarla. Avrei semmai preferito dimenticarla. Non avrei parlato di questo episodio se Transito Soto non avesse avuto una parte così importante per me molto tempo dopo, perché, come ho già detto, non sono un uomo da prostitute, ma questa storia non avrebbe potuto essere scritta se lei non fosse intervenuta per salvarci e salvare al tempo stesso i nostri ricordi. Pochi giorni dopo, quando il dottor Cuevas stava preparandoli psicologicamente al fatto di dover aprire di nuovo la pancia a Clara, Severo e Nivea Del Valle morirono, lasciando diversi figli e 47 nipoti vivi. Clara lo venne a sapere prima degli altri tramite un sogno, ma non lo disse a nessuno se non a Ferula, la quale cercò di tranquillizzarla spiegandole che la gravidanza crea uno stato di agitazione in cui i brutti sogni sono frequenti. Raddoppiò le sue attenzioni, la frizionava con olio di mandorle dolci per evitare le smagliature della pelle del ventre, le metteva miele d'api sui capezzoli perché non si inaridissero, le dava da mangiare gusci d'uovo tritati perché le venisse un buon latte e non le si cariassero i denti, e recitava orazioni di Betlemme per il buon parto. 2 giorni dopo, il sogno, Esteban Trueba rincasò più presto del solito, pallido e agitato. Afferrò per un braccio sua sorella Ferula e si chiuse con lei in biblioteca. «I miei suoceri sono morti in un incidente!» le disse brevemente. «Non voglio che Clara lo venga a sapere fin dopo il parto. Bisogna alzare un muro di censura intorno a lei. Né giornali, né radio, né visite, niente. Stai attenta alla servitù, che nessuno glielo dica!» Ma le sue buone intenzioni si scontrarono con la forza delle premonizioni di Clara. Quella notte sognò di nuovo che i suoi genitori camminavano in un campo di cipolle e che Nive era senza testa, sicché seppe tutto quello che era successo, senza bisogno di leggerlo sul giornale né di ascoltarlo alla radio. Si svegliò molto eccitata e chiese a Ferula che l'aiutasse a vestirsi, perché doveva andare in cerca della testa di sua madre. Ferula corse da Esteban e questi chiamò il dottor Cuevas, il quale, anche a rischio di danneggiare i gemelli, le somministrò una pozione per i pazzi destinata a farla dormire 2 giorni, ma che su di lei non ebbe il minimo effetto. I coniugi Del Valle morirono proprio come Clara aveva sognato e così, come per scherzo, Nive aveva poco tempo prima annunciato che sarebbero morti. «Un giorno o l'altro ci ammazzeremo con questa macchina infernale», aveva detto Nive indicando la vecchia automobile di suo marito. Severo Del Vai aveva avuto fin da giovane un debole per le invenzioni moderne. L'automobile non era stata un'eccezione. Ai tempi in cui tutti si muovevano a piedi, in carrozza, a cavallo o su velocipedi, lui aveva comprato la prima automobile che era arrivata nel paese e che era stata esposta come curiosità in una vetrina del centro. Era un prodigio meccanico che si spostava alla velocità suicida di 15 anche 20 km all'ora, fra lo stupore dei pedoni e le maledizioni di chi al suo passaggio rimaneva schizzato di fango o coperto di polvere. Dapprima venne combattuto come un pericolo pubblico. Eminenti scienziati avevano spiegato sulla stampa che l'organismo umano non era fatto per sopportare una velocità di 20 km all'ora e che il nuovo ingrediente, che chiamavano benzina, poteva prendere fuoco e produrre una reazione a catena che avrebbe distrutto la città. Persino la Chiesa si occupò del fatto. Padre Restrepo, che aveva preso di mira la famiglia Del Valle a partire dal deplorevole fattaccio di Clara alla messa del Giovedì Santo, si elesse guardiano dei buoni costumi e fece udire la sua voce galiziana contro gli amicis rerum novarum, amici delle cose nuove, come quei macchinari satanici che paragonò al carro di fuoco su cui il profeta Elia scomparve in direzione del cielo. Ma Severo aveva ignorato lo scandalo e di lì a poco altri gentiluomini seguirono il suo esempio, finché lo spettacolo delle automobili non cessò di essere una novità. L'aveva usata per oltre 10 anni, rifiutandosi di cambiare modello quando la città si era riempita di auto moderne che erano più efficienti e sicure, per la stessa ragione per cui sua moglie non aveva voluto eliminare i cavalli da tiro finché non erano morti di vecchiaia. La Sunbeam aveva tendine di pizzo e 2 vasi di vetro ai lati, nei quali Nivea metteva sempre fiori freschi. Era tutta foderata di legno lucido e di cuoio rosso e le rifiniture di bronzo erano brillanti come oro. Nonostante il suo nome britannico, era stata battezzata con un nome indigeno, Covadonga. Era perfetta, davvero, a parte il fatto che i freni non avevano mai funzionato. Severo era orgoglioso della sua destrezza meccanica. L'aveva smontata più volte per cercare di aggiustarla e altrettante l'aveva consegnata al Gran Cornuto, un meccanico italiano che era il migliore del paese. Doveva il suo soprannome a una tragedia che gli aveva rabuiato la vita. Dicevano che sua moglie, stufa di fargli le corna senza che lui se la prendesse, l'aveva abbandonato in una notte tempestosa. Ma prima di andarsene aveva legato un paio di corna di bue, comprate in macelleria, sulle punte della cancellata del laboratorio meccanico. Il giorno dopo, quando l'italiano era arrivato al lavoro, aveva trovato una coda di bambini e di vicini che si stavano burlando di lui. Quel dramma, tuttavia, non sminuì per niente il suo prestigio professionale, ma nemmeno lui era riuscito a regolare i freni della Covadonga. Severo aveva deciso di portarsi in automobile una pietra grande e quando parcheggiava in pendenza, un passeggero schiacciava il pedale del freno e l'altro scendeva rapidamente e metteva la pietra davanti alle ruote. Il sistema in genere dava buoni risultati. Ma quella domenica fatale, segnata dal destino come l'ultima della loro vita, non fu così. I coniugi del Vaie erano andati a passeggio nei dintorni della città come facevano in ogni giornata di sole. Ed improvviso i freni avevano cessato di funzionare completamente e prima che Nivea facesse in tempo a saltare dall'auto per sistemare la pietra o Severo a far manovra, l'automobile se n'era scivolata giù per la china. Severo aveva tentato di farla deviare o di bloccarla, ma il diavolo si era impossessato della macchina che aveva volato senza controllo fino a sfracellarsi contro un carro carico di ferro per costruzioni. Una lamiera era entrata nel parabrezza e aveva decapitato Nivea di netto. La sua testa era schizzata via di colpo e, nonostante le ricerche della polizia, dei guardaboschi e della gente dei dintorni che erano andati a cercarla con i cani, era stato impossibile trovarla per 2 giorni. Al terzo i corpi avevano cominciato a puzzare e si era dovuto sotterrarli incompleti in un funerale magnifico al quale assistette la tribù del Vaie e un numero incredibile di amici e di conoscenti, oltre alle delegazioni di donne che andarono a salutare i resti mortali di Nivea, considerata allora la prima femminista del paese, e della quale i suoi nemici ideologici dissero che se aveva perduto la testa in vita non c'era motivo per cui la conservasse nella morte. Clara, reclusa nella sua casa, circondata da donne di servizio che si occupavano di lei, con férula come guardiana e drogata dal dottor Cuevas, non assistette alla sepoltura. Non fece alcun commento che indicasse che era a conoscenza del raccapricciante fatto della testa perduta, per rispetto di tutti quelli che avevano cercato di risparmiarle quell'ultimo dolore, ma quando ebbero termine i funerali e la vita parve tornare alla normalità, Clara convinse Ferula ad accompagnarla a cercarla e fu inutile che sua cognata le desse più medicine e pillole perché non rinunciò al suo proposito di trovare la testa di sua madre.